Si sente, sì. E invece per quel che riguarda il libro vero e proprio, volendo sintetizzare al massimo i suoi contenuti, c'è da dire intanto che questo libro è un piccolo romanzetto, o meglio, sono una serie di raccontini, dei quadretti intrecciati tra di loro con una trama minima che permette quindi di qualificarlo come una vicenda che ha un suo inizio, una sua fine, uno suo svolgimento, e quindi può essere considerato un piccolo romanzo sintetico su un periodo di storia italiana che va dal 1955 al 1968, è volutamente compreso dentro questo arco temporale, ed è ambientato in una zona territoriale che è quella del prealpina, è quella poco più a nord di questo paese di Abbiategrasso, insomma è a nord di Milano, e coinvolge questi paesi che fanno un po' compongono un po' questa zona geografica. E la voce narrante è quella di un ragazzino, di un bambino che nel 55 ha appunto 5-6 anni. Questo ragazzino racconta la sua vita sino a 18 anni e la racconta con il suo sguardo ingenuo, non condizionato da un sapere particolare, da conoscenze particolari, perché è un figlio di proletari, di poveri, di persone che sono uscite dalla condizione della guerra soltanto 10 anni prima e che quindi pagano il prezzo di quello che in questo paese viene chiamato il grande sacrificio della ricostruzione del paese dopo una guerra che ha comportato distruzioni e rovine e miseria. E questo ragazzino vive all'interno di un paesino che è un microcosmo caratterizzato da una realtà che prevalentemente è contadina dal punto di vista socioculturale, economico, eccetera, come erano questi paesi nell'immediato dopoguerra, ancora a prevalenza di economia e di cultura e di mentalità contadina, che comincia a raccontare questo suo vedere, percepire quel mondo, e in questo racconto che si snoda in un arco temporale così in fondo relativo, che va dai suoi 6-7 anni fino ai 18 anni, quindi un tempo che è molto condensato, 12-13 anni, quel che tenta di raccontare, o quel che vede che accade sotto i suoi occhi, è dentro quel microcosmo così concentrato, piccolo, dentro questa realtà così minuscola, una trasformazione spaventosa. E allora il pretesto di questo racconto è un pretesto per raccontare quello che in questi territori è accaduto in un tempo così veloce in termini di trasformazione sociale, che ha comportato il passaggio da una realtà contadina ad una realtà industrializzata in un primo momento, poi fortemente industrializzata, con tutti i conflitti e le conseguenze che ne sono derivate. Questo soggetto appunto non è un soggetto che in questo percorso accumula qualcosa che può assomigliare a una coscienza politica, una consapevolezza appunto ideologica, eccetera, niente di tutto questo. Tutto ciò che accade è ciò che lui vede, di cui è investito, e quindi queste trasformazioni sono così violente, veloci e importanti da travolgere una serie di assetti sociali e relazionali e di socialità, proprio di relazione, e che sconvolgono completamente abitudini, consuetudini, eccetera. E quindi è una specie di presa d'atto e di racconto molto ingenuo, con un linguaggio che tra l'altro non è affatto forbito, perché il soggetto che racconta è un soggetto ovviamente fermo su una scolarizzazione bassa, addirittura in questo racconto si spiega che questa persona si ferma sulla soglia della scolarizzazione delle scuole elementari, perché la scolarizzazione di massa come diciamo iniziativa legislativa in questo paese mi pare sia stata proposta intorno agli anni 61-62, e tutta quella una parte considerevole di quella generazione su questa terra di nessuno di quegli anni è sfuggita all'obbligo scolastico delle scuole medie, e quindi è stata una generazione che dopo le scuole elementari è immediatamente o poco dopo è entrata immediatamente in quello che era l'ordine della vita di una famiglia proletaria, cioè andare a lavorare e andare a lavorare dentro quella situazione che ormai soppiantava il lavoro contadino e affermava una realtà sempre più industriale. Quindi sono la vicenda anche raccontata qua dentro di questo ragazzino e dei suoi amici, perché poi la storia diventa ben presto corale, nel senso che il racconto di questo bambino diventa un racconto di un bambino che ha degli amici, dei coetanei, che poi formano una banda, questa banda poi vive tutta una sua vicenda sempre più conflittuale con gli ordini, con l'ordinamento di questo microcosmo di paese, e questo ragazzino è un ragazzino che va, voglio dire, a lavorare in fabbrica giovanissimo, intorno ai 14 anni, sulla soglia della legittimità del lavoro di fabbrica, allora era questo. E quindi quel che accade è un po' questa cosa, quindi il tentativo di narrazione tiene conto di una voce che ha queste caratteristiche, che è una voce, quindi il tentativo di rendere in maniera genuina questo racconto, che non è mediato da una voce che lo interpreta, ma che è una voce diretta. Questo comporta ovviamente dover dire due parole rispetto appunto al problema della struttura del linguaggio. Tra l'altro apro una parentesi, io non sono uno scrittore, questo è il mio primo improbabile romanzetto, non faccio di mestiere lo scrittore, era al di fuori delle mie intenzioni pubblicare un libro con queste caratteristiche, ho solo curato in passato dei saggi di tutt'altro genere, che a sfondo diciamo saggi di carattere storico-politico, ma non mi sono mai occupato di narrativa, non seguo in particolare neanche all'interno della casa editrice di cui faccio parte il settore di narrativa. Quindi è una cosa del tutto fortuita quello che è accaduto. Però dal punto di vista del linguaggio una scelta effettivamente è stata fatta e non è stata un'interpretazione, bensì è stata una scelta di linguaggio che è stata fondata su un metodo che è che è quello che viene chiamato il metodo dell'inchiesta della conricerca orale, cioè delle fonti orali, cioè quello di andare a interloquire, a discutere, a raccogliere testimonianze, racconti, aneddoti, storie da parte dei soggetti veri che fanno la storia. Quindi non è un'operazione di uno scrittore che si mette a interpretare e a raccontare fingendo di usare un linguaggio, no, è stato banalmente un processo che era partito con una motivazione che nulla aveva a che fare con il destino che ha avuto questa pubblicazione, cioè di finire a costituire l'ossatura per un romanzetto di poche pagine. L'intenzione originaria era quella iscritta dentro un metodo che invece personalmente mi appartiene molto di più, che è quello dell'indagine e della ricerca delle fonti orali a testimonianza dei processi di trasformazione. Un qualche cosa che ovviamente non mi sono inventato io, ma che ha dietro una nobilissima storia che viene chiamata appunto la ricerca delle fonti orali, che ha come massimi maestri persone come Danilo Montaldi, che nel Cremonese, che non è neanche molto distante da qui, aveva negli anni 50 e 60 già sperimentato, raccogliendo esperienze straordinarie di racconti di personaggi che avevano fatto la vicenda di quei territori e le avevano raccontate. Quindi il metodo è stato un po' quello di banalmente andare a interloquire con queste persone, però in una forma che non è quella dell'inchiesta banalmente sociologica, ma è quella che viene chiamata conricerca, cioè la ricerca sociologica ha i suoi metodi e le sue caratteristiche. Questo non è un lavoro che fonda su quei presupposti, bensì fonda sui presupposti della conricerca, che significa banalmente l'interloquire e coinvolgersi tra intervistato e intervistatore nel momento in cui l'intervistato o il narratore racconta. Tutto questo è una metodologia che è stata anche applicata nel corso degli anni 50 e 60 da un filone di ricercatori e di studiosi e di militanti politici di base che appartengono alla vicenda e al filone cosiddetto operaista, e soprattutto rispetto alle questioni dei conflitti di classe, dei conflitti sui luoghi di lavoro, eccetera. Quindi questo è un po' un riferimento, una metodologia che sta alla base della strutturazione di questo lavoro. Dopodiché il fatto di aver intrecciato queste storie dandogli trovando degli espedienti per combinarli e dargli una struttura narrativa, è un espediente ed è qualcosa che invece attiene a delle tecniche di narrazione che provengono da un altro referente culturale che ha un po' condizionato un po' le vicende della mia formazione ormai giovanile, che è Nanni Balestrini, è vero, perché anche lui fonda la sua forma di scrittura a partire dalle fonti orali originarie e sulla base di queste fonti poi dopo applica, lui sì perché è uno scrittore, una serie di tecniche raffinatissime di rielaborazione del testo orale e di costruzione poi di la struttura di un romanzo, no? Di una narrazione che però ha come caratteristica un racconto che ha a riferimento l'aspetto mitico di quello che si racconta, cioè un aspetto che ha fondamentalmente un grande scenario sociale, è una scelta anche di carattere culturale quella di evitare di raccontare delle storie che hanno riferimento i piccoli cazzi personali di ciascuno, cioè nel senso che questo tipo di narrativa ha sempre a fondamento il principio di trovare il pretesto, l'espediente del racconto anche di una vicenda singola, personale, di una persona, appunto di un personaggio, no? Però il pretesto è quello poi di raccontare, narrando la vicenda di una persona, di raccontare uno scenario sociale degli eventi che sono stati importanti dentro dei contesti storici. Allora, io adesso detto così sembra che chissà a cosa ho partecipato e ho contribuito a partecipare facendo questo libretto. No, non voglio dire questo, voglio solo dire che la metodologia e le intenzioni, al di là dei loro risultati, sono iscritti dentro questo tipo di criteri. Oltre alla citazione di questi grandi maestri, che sono appunto Danilo Montaldi e di Nanni Balestrini, l'altro riferimento fortissimo sono ovviamente tutti i ricercatori, l'ho detto e lo ripeto, della corrente, chiamiamolo impropriamente corrente, diciamo di questa tradizione, chiamiamola dell'operaismo italiano, e invece dal punto di vista personale l'altra persona a cui ho fatto riferimento e che mi ha insegnato riguardo queste cose molto è una persona che si chiama Primo Moroni, che non c'è più da qualche anno, che anche egli insomma lavorava con questi metodi ed era una persona che si è dedicata tutta la vita a questo tipo di metodologia, di studio, di analisi è stato fino alla fine anche una persona che ha contribuito a incentivare il lavoro dell'Istituto De Martino, che appunto è un altro ambito che lavora con questi criteri e metodologia di studio delle trasformazioni sociali sulla base delle fonti orali. Questo è un po' la questione. Quel che racconta il libretto l'ho un po' sintetizzato. Certo, quando noi diciamo che il periodo preso in considerazione è quello che va dal 55 al 68, ci viene immediatamente in mente che quel periodo è quello che è stato definito da un punto di vista, diciamo, di definizione un po' giornalistica e entrata nel luogo comune, è quello del boom economico, cioè di un paese uscito appunto dalla guerra che esce da una contingenza, da un'emergenza tremenda e fuoriesce da questo e affronta una fase che è di grande trasformazione, di crescita economica, di diffusione di un benessere che passa attraverso l'accesso a un maggior volume di consumi. E questo legato ovviamente ad una trasformazione prioritariamente economica, ovviamente con un passaggio da una struttura ad un'altra, e questo ovviamente come processo sociale investe tutti i soggetti e investe i punti di suo massimo sviluppo. Chiaramente i territori presi in considerazione in questo romanzo sono territori che nulla hanno di diverso ad esempio da questo stesso territorio dove siamo qua questa sera. Non credo che sia l'ambientazione di quello che qualcuno di voi riuscirà a leggere dentro questo libretto, voglio dire, laddove è stato ambientato, non è citato neanche il paese, non avrebbe nulla di diverso, di differente da quel che è successo probabilmente in quegli anni in paesi come questi, in cittadine e in borghi vicini a Biategrasso, perché non solo per un problema di vicinanza geografica, ma proprio per una questione di omogeneità territoriale e di processo che ha investito questi territori tutto sommato in maniera omogenea in quel periodo, che sono appunto quelli del boom economico. Ovviamente tutte le volte che accade un processo così devastante dal punto di vista delle trasformazioni sociali, di modernizzazione, che in genere si usa questo termine, cioè di salto, di rottura dei paradigmi, delle logiche, delle strutture preesistenti, i soggetti non è che non ne siano investiti dal punto di vista della loro sensibilità, della loro percezione. E quel periodo è stato un periodo veramente di straordinaria trasformazione. Ora, perché forse è interessante parlarne adesso? Perché stiamo vivendo paradigmaticamente un ulteriore, alla metà degli anni Ottanta in poi, in maniera forse graduale, poi negli anni Novanta in maniera sempre più esplicita, e adesso stiamo vivendo un processo di modernizzazione, di trasformazione, di rottura radicale di tutti i paradigmi precedenti, molto simile a quello del ciclo discusso e raccontato attraverso l'espediente del romanzo come codice di narrazione. Anche adesso, o negli ultimi 15 anni, in questo paese, questi territori, nello specifico, hanno potuto registrare un ulteriore salto di trasformazione che ha investito i soggetti e quindi forse è interessante questo di aspetto. Cosa succede nella vita delle persone quando saltano assetti sociali e accadono trasformazioni così repentine, concentrate, veloci, drammatiche e straordinarie? Cosa accade dal punto di vista della vita materiale delle persone? Cosa accade dal punto di vista della loro socializzazione? Cosa accade dal punto di vista dell'ordinamento sociale? Cosa accade dal punto di vista delle forme della rappresentanza politica che si modificano? Cosa accade dal punto di vista dei gusti, dei consumi, degli accessi ai saperi, del loro uso, eccetera, eccetera. Quindi questa cosa di per sé può avere, vuol dire, un suo significato perché è circoscritta a quel periodo, però può avere magari anche un altro significato che è quello di valutare la possibilità che tutte le volte che questo accade, qualcosa però accade in maniera sempre diversa, però qualcosa si ripete. Quel che si ripete è che in questo libro si presume di voler, in seconda traccia, raccontare è quello che io chiamo e le persone che ho citato prima chiamavano e mi hanno insegnato a chiamare la prepolitica, cioè sembra un termine bizzarro, e cioè lo dice, è ciò che viene prima dell'espressione esplicita dell'iniziativa politica, della consapevolezza politica, della consapevolezza ideologica, della strutturazione culturale di un sapere che riesce a descrivere, che è quello che chiamiamo coscienza, no? Tutto ciò che viene prima di un ordine di discorso. Questa prepolitica è un tentativo affannoso che le persone si danno dentro degli scompaginamenti tutte le volte che sono investiti da trasformazione che gli rompono gli ordini dei discorsi precedenti. Allora, in quel periodo è accaduto quello. Ovviamente tutto ciò che da un punto di vista ideologico forniva argomento di ordine del discorso in quel periodo, in quegli anni così concentrati, è saltato, cioè gli ordini dei discorsi erano molto elementari in quel ciclo storico così recente. Da una parte c'era il predominio incontrastato di un ordine di discorso che riguardava e che era concentrato, che era espresso dal potere clericale, dal potere che voglio dire, l'ordine clericale dominante in questi territori, anche voglio dire, in virtù di saperi centenari, sapevano applicare sulla vita materiale delle persone, dando indicazioni di comportamento, istituendo valori, istituendo norme, istituendo divieti, istituendo pregiudizi, eccetera, eccetera. Ecco, quello era, diciamo, una parte. Alla sua opposto c'era una sorta di opposizione iscritta dentro quello che era un ordine del discorso che gli si contrapponeva, che era l'ordine del discorso maturato dentro la vicenda del tentativo di organizzare questa opposizione dentro la tradizione delle vicende del movimento operaio ufficiale che da un secolo, no? Quello che chiamiamo e sappiamo essere stata la vicenda straordinaria dell'organizzazione, diciamo, del movimento operaio e socialista. E poi col suo scampolo, diciamo, di scissione comunista, diciamo, che si è sviluppata dalla fine dell'Ottocento, poi per tutti gli anni, compresi quelli del fascismo, in forma di resistenza, eccetera, eccetera, resistenza, poi il periodo della liberazione e il dopoguerra. Ecco, dentro questi minuscoli paesi aggregati urbani, gli ordini del discorso erano concentrati attorno a questi due elementi, uno preponderante, massiccio e sovrastante, che era quello, diciamo, della conservazione, fortemente condizionato dagli impianti clericali, e poi c'era questa tradizione ormai consolidata da un secolo, che era quella delle vicende dei movimenti, della storia del movimento operaio ufficiale, che si esprimeva attraverso le sue vicende, lotte sindacali, di cooperative, eccetera, eccetera, e poi anche partitici nelle forme organizzate dai partiti della cosiddetta sinistra, insomma, no? Ora, ecco, tutto quel tipo di impianto in quel quindicennio raccontato, e cioè negli anni che vanno dalla post-guerra sino al 68, entrano in crisi, proprio perché entrano in crisi tutti i paradigmi che prima li legittimavano, e la generazione che cresce, vuol dire, matura le proprie esperienze esistenziali, i propri esperimenti, la propria socializzazione, comincia a rivoltarsi, a sentire un bisogno di rivolta, non solo rispetto all'ordine preponderante, diciamo, di conservazione, ma anche rispetto alla sua alternativa. Quindi tutto quello che è trasformazione investe questi soggetti e rende inutile l'iscrizione di questi soggetti dentro una parte o quell'altra, matura un bisogno di fare qualcosa d'altro che fuoriesce da questi due schemi. Quello che si tenta di raccontare in questo libretto è quella vicenda di questa rivolta che ha caratteri appunto non ideologici, ma soltanto esistenziali, però è una carica di rivolta proprio perché è esistenziale, cioè affonda nella materialità di nuovi bisogni che non iscritti dentro quelle logiche. E comporteranno poi l'esplosione, come sappiamo, nel 68, di qualcosa che poi si manifesta come assolutamente inedito rispetto, o comunque con molti caratteri inediti rispetto alla tradizione di ciò che chiamiamo conflitto, o che si riconosceva e si etichettava o si catalogava come il conflitto delle lotte, eccetera, eccetera. Il 68 si presenta come esplosione generalizzata, con una carica inedita di novità, di creatività, che è appunto il frutto del fatto che i soggetti, essendo passati per questo tipo di innovazioni, sono portatori nella loro rivolta di elementi che non appartengono più alle vicende delle rivolte precedenti. Questo lo dico perché è molto simile, secondo me, a quello che sta accadendo adesso e a tutta una serie di manifestazioni, dire che probabilmente anche ad Abbiategrasso, in forma forse latente, in forma ultraminoritaria, in forma che io non posso giudicare perché non conosco, però che si manifestano dentro la presenza della militanza, delle persone che ci hanno invitato qua questa sera a discutere della presentazione di questo libretto. Ecco, allora, che cosa incuba? Che cos'è la prepolitica? Che cos'è il lento farsi a incubare di una rivolta futura? Allora, è un lento accumularsi di elementi di rivolta esistenziale fortemente caratterizzati dai conflitti moderni, cioè dei conflitti che risentono fortemente degli elementi di questa trasformazione che è in atto, e quindi bisogna avere la consapevolezza che laddove riescono a concentrarsi, a coagularsi, probabilmente si presenteranno sulla scena con dei caratteri assolutamente inediti, e di questo la sinistra, quel che ne rimane, quel che è, quel che dice di essere anche oggi dentro il suo processo di innovazione, deve avere coscienza, perché comunque questa innovazione avrà caratteri che difficilmente saprà comprendere, e c'è sempre il rischio poi che questa incomprensione si risolva in ulteriori conflitti all'interno dello stesso schieramento e parte. L'ultima cosa che voglio dire, sperando poi che ci sia qualche domanda, sperando o confidando nel fatto che magari questa piccola introduzione può offrire occasione per una discussione, è che quello che è raccontato in questo libro è appunto la vicenda di un soggetto che precede l'esplosione generalizzata del 68. Allora, se noi dovessimo andare a vedere dal punto di vista della letteratura sul 68, chi è un po' più in là con gli anni e se ne è un po' occupato o ha avuto occasione di la curiosità di andarlo a vedere, sappiamo che la letteratura abbonda in maniera straordinaria nella descrizione del soggetto del 68 raccontato come il soggetto della rivolta studentesca, il soggetto per lo più metropolitano, quindi insediato e stanziale dentro le grandi concentrazioni urbane, e ha con la caratteristica dell'essere appunto lo studente dell'università che occupava l'università. E quando noi diciamo l'esplosione del 68 ci viene in mente questo, o ci è raccontato prevalentemente questo. Questo non è storicamente vero, perché seppur è verissimo che c'è stata una rivolta studentesca universitaria, bisogna però considerare che quella espressione è stata espressione di una rivolta dei figli della borghesia che allora accedevano all'università, perché non bisogna dimenticarsi che fino al 1968, e proprio in virtù delle lotte che sono scoppiate nel 68, l'accesso all'università è stato liberalizzato e quindi anche i figli dei proletari hanno potuto accedere al sapere. I soggetti che nel 68 si sono rivoltati nelle università erano i figli della borghesia che si sono rivoltati contro le loro famiglie, la loro cultura e la loro tradizione. Sono stati sicuramente soggetti centrali e importantissimi per quella esplosione di conflitto, ma però la stragrande maggioranza dei soggetti che si sono poi trovati a, come se fosse stato dato un appuntamento, sono quei momenti magici in cui accadono queste cose straordinarie senza che nessuno le abbia prefissate, e i soggetti ultramaggioritari quantitativamente che hanno partecipato a questa espressione generalizzata, e quando io dico generalizzata intendo dire che non è si è espressa solo dentro le grandi città o metropoli italiane, allora forse non erano ancora metropoli, erano solo città, ma si sono espresse anche nell'ultimo villaggio di questo paese, cioè il 68 esploso come sua espressione ovunque in questo paese. Com'è possibile che accade questo? È accaduto questo proprio in virtù di quella lenta incubazione di cui parlavo prima, e soprattutto i soggetti che lo hanno animato erano soggetti invece appartenenti alle classi meno agiate e proletarie, questi soggetti erano soggetti che hanno partecipato a questa rivolta non godendo di grandi condizioni che godevano, non potevano godere di grandi condizioni preesistenti di sapere, non erano soggetti colti, e questo stesso libro rende conto di una voce narrante che appunto è scritta dentro la voce dei semicolti o degli incolti, e quindi sono stati però quelli i soggetti massa che si sono rivoltati. D'altra parte è stato sufficiente aspettare un anno, e cioè il 1969 e l'autunno del 1969, per assistere dentro quell'esplosione alla partecipazione, all'irruzione sulla scena di un soggetto ben più forte e ben più costituito e massicciamente determinato dell'esplosione, diciamo, esistenziale giovanile, che è stato il soggetto operaio delle grandi fabbriche, delle piccole, delle medie fabbriche, comunque quello che chiamiamo l'esplosione dell'autunno caldo operaio, che poi ha fatto giustizia di tutte queste ambiguità e ha dato poi effettivamente un'impronta molto più potente per le conseguenze che ci sono state negli anni successivi. Basta, perché sennò la meniamo troppo. Beh, parte gli applausi. No, non lo so, cioè...